Ciao a tutti, sono Francesco Prando. Volevo dirvi che io la sento spesso la stanza del nonno, voi ancora no? Ma è un vero peccato, vi perdete qualche cosa di molto interessante. Date retta a un amico.